Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo martedì 5 febbraio, ancora dunque coronavirus, ancora prescrizione e arrivano i dati per pur frammentari e parziali delle elezioni primarie democratiche in Iowa per la corsa alla Casa Bianca ed è testa a testa tra Pete Buttigieg, il più giovane tra i candidati, e Bernie Sanders, il più anziano ma anche il più socialista, mentre il grande battuto sicuramente è Joe Biden che si piazza quarto in questa classifica delle primarie Dem. Di questo parleremo evidentemente nella segna stampa, ma subito Radio Boot e buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. La guerra in Iraq è costata agli Stati Uniti 2 trilioni di dollari. L'Europa boccia il piano di Trump per il Medio Oriente. Libano, il Daily Star sospende l'edizione cartacea. Francia, blogger ceceno ucciso a Lille. Nuova Zelanda, paura del coronavirus affligge le prostitute cinesi. Nigeria, tornano 300 milioni rubati da un ex dittatore. Il Venezuela impedisce l'entrata alla delegazione dell'OAS per i diritti umani. Infine Brasile, documentario ottiene la nomina agli Oscar, ma il presidente Bolsonaro lo odia. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo con l'Iran. Sarà presto giustiziato, hanno dichiarato le autorità iraniane, Amir Rahimpour, un uomo condannato a morte in Iran per aver spiato per la CIA, aver tentato di trasmettere informazioni sul programma nucleare di Teheran. Iraq, la guerra è costata agli Stati Uniti quasi 2 trilioni di dollari. La cifra include 838 miliardi in finanziamenti di emergenza e operazioni di emergenza all'estero e 59 miliardi spesi dal Dipartimento di Stato e da USAID in Iraq e Siria. Anche se l'amministrazione americana decidesse di lasciare immediatamente l'Iraq o di essere sfrattata, fino a quel momento la polizza di guerra negli Stati Uniti ammonterebbe a 1.922 miliardi di dollari. Questa cifra include non solo i finanziamenti stanziati in modo esplicito per il Pentagono proprio per la guerra, ma spese per l'Iraq da parte del Dipartimento di Stato, la cura dei veterani di guerra in Iraq e gli interessi dei debiti sostenuti per finanziare 16 anni di coinvolgimento militare degli Stati Uniti nel paese. Su fronte proteste invece un membro della sicurezza e 4 manifestanti sono stati feriti durante manifestazioni a Baghdad. Siria, dopo l'attacco che ha visto colpite truppe turche nella provincia di Idlib, il presidente Erdogan ribadisce che non ci sarà una guerra con i russi, ma il regime siriano ha violato la tregua e pagherà. Libano, l'unico giornale in lingua inglese, è stato costretto a sospendere temporaneamente la sua edizione cartacea a causa della crisi economica che attanaglia il paese. Fondato nel 1952, The Daily Star è tra i principali giornali di notizie inglese che coprono il mondo arabo. Ha assicurato che le sue piattaforme online e sui social media rimarranno operative. Israele, Palestina, l'Unione Europea respinto la proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Medio Oriente, ha espresso preoccupazione per i piani di Israele di annettere più terra palestinese. Il capo della politica estera europea, Joseph Borrell, ha sottolineato l'impegno per una soluzione a due stati basata su confini del 1967 con la possibilità di scambi di terre reciprocamente concordati costituiti da Israele e uno stato indipendente, democratico, continuo, sovrano e vitale della Palestina. Borrell ha anche affermato che l'iniziativa statunitense si discosta da questi parametri concordati a livello internazionale. L'Unione Europea è particolarmente preoccupata dalle dichiarazioni sulla prospettiva dell'annessione della Valle del Giordano e di altre parti della Cisgiordania, aggiunto Borrell. Ha suggerito che l'Europa potrebbe prendere in considerazione un'azione legale, affermando che eventuali passi verso l'annessione, se attuati, dovrebbero essere contrastati, riporta l'AP. Anche la bozza di risoluzione delle Nazioni Unite condanna l'annessione israeliana del piano Trump. Il testo, distribuito da Tunisia a Indonesia, dovrà affrontare il possibile veto americano, ma offre una visione del piano di pace lanciato la settimana scorsa con grande clamore. E durante la conferenza del Likud, il premier Netanyahu ha detto che il suo partito deve vincere le elezioni proprio per poter applicare la sovranità in Giudea e Samaria, Cisgiordania per tutti gli altri. L'aeronautica israeliana ha lanciato una serie di attacchi aerei su quelle che ha affermato essere posizioni di Hamas, incluso un sito di produzione di armi, a seguito di una serie di razzi lanciati dal sud di Gaza martedì, secondo quanto riferito dalle forze di difesa israeliane. Mentre tre missili non hanno causato danni o feriti atterrando in campi fuori dalla città di Netivot, le sortite israeliane sono arrivate sulla scia di 13 lanci di missili la settimana scorsa, hanno specificato i militari. Due sono i feriti dei lanci israeliani che hanno colpito obiettivi vicino a Khan Yunis, dice il Jerusalem Post. Libia, accordo raggiunto durante la riunione del Comitato Militare Congiunto. Le Nazioni Unite parlano di tregua permanente. Bisognerà vedere se le parole si trasformeranno in fatti. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, martedì ha definito la situazione in Libia uno scandalo, anche se il suo inviato ha citato una volontà genuina da parte di fazioni militari rivali mentre pianificavano il loro primo incontro per garantire un cessate il fuoco duraturo. Tunisia, le poste hanno annunciato il lancio di un francobollo speciale con l'effigie di Lina Ben Menhen, giornalista icona della rivoluzione 2011 e della libertà di stampa, morta per malattia il 27 gennaio scorso. Stai ascoltando Radio Bullets. E ora scendiamo in Africa, in Nigeria, che riceverà circa 308 milioni di dollari prelevati dai conti bancari dell'ex dittatore militare Sani Abacha in virtù di un accordo tra Stati Uniti, l'isola inglese di Jersey e la Nigeria. Il Dipartimento di Stato americano ha ospitato una cerimonia per la firma dell'accordo e ha annunciato che il denaro verrà speso in tre importanti progetti stradali in tutta la Nigeria. L'accordo include anche disposizioni per garantire la trasparenza e la responsabilità, imponendo alla Nigeria di rimborsare tutti i fondi persi a seguito di nuove corruzioni o frodi sul conto. Il rimpatrio del denaro da Jersey nel canale della Manica, al largo della costa del nord della Francia, fa seguito a una sentenza di un tribunale americano del 2014 che autorizzava il sequestro di 500 milioni di dollari riciclati da Abacha in conti in tutto il mondo. Abacha governò la Nigeria dal 1993 fino alla sua morte nel 1998. Il Dipartimento di Giustizia sta anche cercando di recuperare altri soldi legati ad Abacha, tra cui 30 milioni in Gran Bretagna, 144 milioni in Francia e 177 milioni situati in un trust che nominano soci e parenti di Abacha come beneficiari. Sudafrica, mandato di arresto per l'ex presidente Zuma, accusato di corruzione, che non si è presentato in tribunale. La polizia francese ha chiuso l'ultimo campo per migranti nella zona nord di Parigi. Vivevano in tende e rifugi di fortuna 266 persone nel campo sul canale. Le autorità regolarmente distruggono i campi, dicendo che rappresentano un pericolo per la salute. E un blogger ceceno che aveva criticato il leader del paese, Ramzan Kadyrov, è stato brutalmente assassinato in Francia in quello che è solo l'ultimo omicidio di un dissidente ceceno in Europa. Imran Aliyev, 44 anni, è stato trovato morto la scorsa settimana in una camera d'albergo nella città di Lille. È stato pugnalato ripetutamente al collo. La polizia non ha ancora un sospetto, anche se fonti della polizia hanno detto ai media francesi che pensano che il motivo possa essere politico. I ceceni che vivono in esilio e hanno combattuto, parlato contro Kadyrov, lo spietato leader ceceno nominato da Vladimir Putin, sono stati spesso uccisi. L'anno scorso un ex comandante militante ribelle ceceno è stato colpito 2 volte alla testa in un omicidio mirato a Berlino. Non ho dubbi sul fatto che Aliyev fosse in un elenco di persone che sono state condannate a morte, ha dichiarato Tumso Abdurakhmanov, un altro videoblogger che vive in Europa e che ha ricevuto minacce dagli alleati di Kadyrov per le sue critiche su YouTube al governo della Cecenia. E ora ci spostiamo alle notizie che riguardano Russia e Europa. Abbiamo in collegamento Giancarlo Castelli che ci spiegherà le preoccupazioni russe per le prossime esercitazioni della NATO in Europa. Una certa e nemmeno troppo malcelata preoccupazione sta suscitando in Russia l'imminente esercitazione della NATO in Europa, chiamata Defender Europe 2020. Dalle colonne della Rassiskaya Gazeta, il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, non ha usato troppi giri di parole. È la classica provocazione americana ai confini della Federazione Russa. Posso garantire che se saremo costretti, reagiremo. Defender Europe 2020 si terrà a cavallo di aprile e maggio prossimi e le esercitazioni militari si terranno in Germania, nel Baltico e in gran parte dei paesi della NATO dell'Est Europa, compresa la Georgia, che da tempo partecipa alle operazioni dell'Alleanza Atlantica, pur essendo in attesa dell'ok come membro effettivo. Secondo quanto riferito dallo stesso Lavrov, gli Stati Uniti utilizzeranno circa 30.000 mezzi militari e 20.000 soldati che andranno ad unirsi alle forze già presenti stabilmente nel vecchio continente, quasi raddoppiandone il numero. Gli americani fanno quel che vogliono, ha detto il capo della diplomazia russa. In pratica la loro sfera di comando all'interno della NATO è la stessa delle forze dislocate sul territorio europeo. Come reagirà la Russia? Lavrov ovviamente non l'ha detto, ma ha assicurato che nessuna risposta a quelle che ha chiamato vere e proprie provocazioni metterà inutilmente a rischio l'equilibrio mondiale. Noi dobbiamo difendere le basi nucleari che, al contrario di quelle degli Stati Uniti, sono presenti soltanto sul nostro territorio. Così ha concluso il ministro russo. Grazie Giancarlo e proseguiamo con la Cina, 24.300 contagi, 492 i morti, 3.000 addetti sanitari in arrivo a Wuhan da tutto il paese per curare i casi più gravi. Ci evitano come se trasmettessimo il virus, la paura del coronavirus affligge le prostitute cinesi, i timori del coronavirus stanno minando gli affari per le prostitute cinesi all'estero poiché si sono diffusi allarme sui rischi di infezione anche in paesi che hanno limitato i viaggi verso la Cina continentale. Offro grandi sconti, ma i clienti ci stanno evitando come se avessimo il virus, ha detto una prostituta cinese in Nuova Zelanda al South China Morning Post, un giornale di Hong Kong. Giappone approva l'aumento dell'età pensionabile a 70 anni, parte di uno sforzo per affrontare una carenza di manodopera prevista in futuro e l'aumento del costo delle pensioni. Allarme rosso in Nuova Zelanda, 2.000 persone evacuate, la regione meridionale del sud colpita dalle inondazioni, una cartiera si teme rilasci ammoniaca che potrebbe mescolarsi con le acque dell'alluvione. L'inondazione attraverso le pianure agricole pianeggianti di Southland all'estremità meridionale dell'isola, avvenuta un giorno dopo che escursionisti turisti sono stati evacuati da un'altra parte della regione, Fiordland, dove è caduto più di un metro di pioggia in meno di 3 giorni. Louis Ferris del Met Service della Nuova Zelanda ha detto che le tempeste hanno generato il suo primo avvertimento rosso, una nuova allerta creata dall'agenzia a maggio dell'anno scorso. Stati Uniti, il New York Times rivela abusi e molestie nel dietro le quinte di Victoria's Secret, una delle più prestigiose case di intimo, icona della moda femminile che ora rischia di scomparire nel mirino. L'ex manager Ed Radzek, 71 anni, che si difende dicendo che le accuse sono false, eppure dall'inchiesta del New York Times gli angeli di Victoria's Secret parlano di misoginia, prepotenza e molestie da anni. Il presidente Trump, nel consueto discorso annuale sullo Stato dell'Unione, oltre aver sottolineato quanto l'economia americana non sia mai andata meglio, ha ignorato completamente l'impeachment e la Corea del Nord nel suo discorso. Presenti tra il pubblico il leader dell'opposizione venezuelana Guaidó, che ha ricevuto una standing ovation alla quale si sono uniti anche i democratici, ha aggiunto che la guerra con l'Iran è stata più vicina di quanto si possa pensare. Il Pentagono ha confermato la messa in campo di nuove armi nucleari, in particolare la nuova testata missilistica lanciata da sottomarini a basso rendimento V-76-2. Si tratta di una testata modificata di una esistente che viene utilizzata per armare missili Trident 2 lanciati da sottomarini. Messico, 9 persone, tra cui 3 minori di età compresa tra i 12, 13 e 14 anni, sono stati uccisi quando uomini armati hanno aperto il fuoco in una sala giochi nel Messico occidentale. I pubblici ministeri dello stato di Michoacán hanno dichiarato che alla fine di lunedì l'attacco ha lasciato ferito altre 2 persone. 4 uomini armati apparentemente avevano obiettivi specifici, ma poi hanno aperto il fuoco indiscriminatamente sui clienti. 2 delle vittime avevano 17-18 anni. L'attacco è avvenuto lunedì nella città di Uruapan, dove la violenza ha raggiunto proporzioni scioccanti. Durante il fine settimana gli investigatori hanno anche trovato i corpi decomposti di 11 persone in tombe clandestine a Uruapan. Venezuela, la Commissione Interamericana per i diritti umani ha affermato che i suoi funzionari sono stati bloccati martedì dall'imbarcare su un aereo da Panama verso il Venezuela, dove il governo aveva già chiuso le porte a una visita la settimana scorsa. Avrebbero dovuto indagare per 5 giorni sulle condizioni dei diritti umani nel paese. La delegazione ha deciso di ripiegare verso Cucuta, una città sul lato colombiano del confine con il Venezuela, per raccogliere documenti, testimonianze di vittime e familiari sulle gravi violazioni dei diritti umani. La Colombia è la principale destinazione per i migranti venezuelani in fuga dalla crisi del paese, che ha causato una diffusa carenza di cibo e di medicine. Il principale funzionario del Venezuela per i diritti umani, Larry DeVoe, ha scritto venerdì in una lettera rilanciata dal suo account Twitter che la visita della delegazione non sarebbe stata autorizzata perché Venezuela ha lasciato l'Organizzazione degli Stati Americani nell'aprile 2019. E concludiamo con il Brasile. Per la sinistra è un'intrepida narratrice di verità, per la destra è una bugiarda, forse una vera criminale. Per gli Oscar potrebbe essere la migliore documentarista del 2019. Il personaggio di cui parliamo è la regista Petra Costa. In questione il suo documentario The Age of Democracy e la sua rappresentazione degli eventi di divisione che circondano la rimozione di un presidente brasiliano, la prigionia di un altro e l'ascesa di un terzo, il nazionalista Bolsonaro. Il film nasconde ben poco le simpatie per la sinistra e il disprezzo per Bolsonaro, l'attuale presidente, ed è stato diffuso da Netflix in inglese lo scorso anno. Sono nata in un'epoca di democrazia e la democrazia è un mio diritto di nascita, ha detto la Costa, 36 anni, ospite della giornalista Christiane Amanpour. E da parte nostra anche per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi, appuntamento domani con una nuova raffica di notizie. He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Lobau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war, And without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war. Donovan, il menestrello degli anni 60, ma veniamo invece a parlare di Airbnb, perché dopo lo stop di Italia Viva, l'emendamento che regolamentava questo Airbnb e anche le piattaforme turistiche, Pensare Urbano lancia un appello al governo insieme a docenti universitari, attivisti ed esponenti politici. L'intervista a Fabio D'Alfonso di Pensare Urbano stesso. Questo appello è rivolto al governo e richiede di fatto, diciamo, la ripresa di quei contenuti che erano stati introdotti nell'emendamento poi ritirato da parte dello stesso governo sulla base anche della pressione di Italia Viva, affinché appunto non si regolamentasse il mercato di Airbnb e in generale il mercato degli affitti brevi turistici. E quindi chiediamo un pochino di riprendere anche nella discussione rispetto al prossimo testo che verrà presentato in questa settimana quella logica anche municipalista che vede i comuni come soggetti che riescono a regolamentare, a regolare il mercato degli affitti brevi all'interno appunto del proprio territorio. E insomma l'abbiamo sottoposto a una serie di esponenti del mondo della cultura, dell'accademia e della politica e dell'attivismo per tentare innanzitutto di muovere in qualche modo l'opinione pubblica, di fare in modo che si discutesse pubblicamente di questo tema che ormai da tempo insomma causa problemi all'interno dei centri urbani e dei tessuti urbani. Tra i firmatari ci sono anche dei docenti universitari, ecco, quindi insomma l'università se non formalmente come istituzione, però almeno nella sensibilità di alcuni docenti, è interessata anche dal fenomeno degli Airbnb. Sì, nel senso che ovviamente non abbiamo raccolto appunto come dicevi una, diciamo, sottoscrizione da parte dell'università in quanto istituzione. Certo è che però tantissimi docenti che sotto vari aspetti hanno studiato, analizzato la questione negli ultimi anni sono ormai nella maggioranza d'accordo nel dire che evidentemente una qualche forma di regolamentazione va applicata a quel tipo di mercato. Questo è un dato importante perché ci dice come insomma anche la comunità accademica insomma si schiera a favore di questa regolamentazione, facendosi forte insomma degli tantissimi studi, delle tantissime ricerche fatte a livello europeo, internazionale, ma anche italiano, insomma ce ne sono molti esempi di studi molto approfonditi che dimostrano come effettivamente Airbnb produca una contrazione dell'offerta di affitti a lungo termine. Ecco. Quali sono le categorie sociali più colpite dall'esplosione di questi affitti turistici? Beh, sicuramente tutti coloro che non hanno un appartamento o più appartamenti di proprietà. Ovviamente sono l'estrema maggioranza e hanno anche molte sfaccettature, perché ad esempio a Bologna ci sono sì studenti fuori sede o lavoratori fuori sede, ma ci sono anche tanti residenti, ci sono tante giovani coppie, ci sono migranti, ci sono tutti i soggetti in qualche modo che fanno difficoltà a sostenere la spesa dell'affitto e appunto questa contrazione dell'offerta produce un innalzamento dei prezzi, produce gentrificazione, produce una serie di processi che si danno nella città che in qualche modo rendono la vita più cara per la maggior parte delle persone. Tu prima facevi riferimento al Parlamento, alla misura che dovrà riessere discussa non più nel milleproroghe ma appunto in un altro provvedimento. Quale sarà? Allora, in questa settimana si discuterà il collegato alla legge di bilancio sul turismo, che aveva come scadenza di presentazione lo scorso 31 gennaio, che però non è un limite perentorio, che quindi insomma il governo si è preso qualche giorno in più per appunto, secondo anche le parole del deputato Pellicani, il deputato del Partito Democratico, per provare insomma a costruire un testo quanto più condiviso nella maggioranza. Quello che auspichiamo noi è che non sia un testo diciamo smussato di tutte le sue parti positive, per tenere dentro anche i favori di Italia Viva e del deputato Luigi Marattin, che insomma che più di tutti si è battuto contro questo emendamento. Quindi entro questa settimana si discuterà. Ecco, ma non c'è il rischio che ritornino i bastoni fra le ruote che abbiamo visto la settimana scorsa? Il rischio c'è, ed è proprio per questo che abbiamo prodotto questo appello, per fare in modo insomma che non ci sia solo il mondo vicino Italia Viva di alcune associazioni di host che hanno favorito quel tipo di opposizione, ma per dire che esiste tutta un'altra parte di paese oltre che di città che richiede a gran voce questa regolamentazione e lo fa insomma in vari modi, lo fa firmando un appello, lo fa impegnandosi sui territori, lo fa con degli studi universitari. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. 9:29 minuti di questo 5 febbraio, mercoledì. Buongiorno a tutti, state all'ascolto della nostra rassegna stampa all'interno di Radio Zanardi, che parte dalle primarie democratiche degli Stati Uniti d'America. L'Iowa, che tutti dicono essere così tradizionalmente una sorta di grande exit poll per il risultato finale della, per sapere chi sarà il candidato dopo ora Trump alle prossime elezioni della Casa Bianca di novembre. Beh, la cosa finisce in un grande pasticcio e conferma quello che è l'ascesa della sinistra in Partito Democratico, che è il terrore dei moderati. Questo è un po' il quadro che viene fuori dai giornali. Caos alle primarie in Iowa, dice Sulle 24 Ore, regalo dei democratici a Trump. Ovviamente Trump ne approfitta sia di questa topica, di questa app che ha fatto fallire i conteggi. Siamo ancora in altissimo mare per sapere chi ha vinto e chi non ha vinto queste primarie, e dall'altro Trump tutto ride sotto i baffi per le contraddizioni interne ai democratici, difficilmente sanabili, perché sembra, anche da come si vede dalla stampa libera tra virgolette, che il vero nemico da battere non è Trump ma è Bernie Sanders. Ritardo nelle senza precedenti comunque nella pubblicazione dei risultati del voto. Il presidente USA, cioè Donald Trump, esalta le sue politiche nel discorso sullo Stato dell'Unione, perché ieri c'era appunto questo altrettanto tradizionale Stato dell'Unione davanti al Parlamento in diretta televisiva, e Trump appunto ha esaltato la sua ricetta economica e nonché la sua corsa alla Casa Bianca. Comunque c'è da una parte questa incongruenza: il caos ha vinto il primo turno delle primarie democratiche dell'Iowa, un caos anche amplificato dai media per oscurare poi appunto l'affermazione della sinistra, e soprattutto l'affondamento di Joe Biden, che era data a questi soloni della stampa come il più accreditato e inevitabile avversario di Donald Trump. I risultati, siamo ben dietro, siamo al 40% dei voti, quindi oggi stamattina al 61, ma insomma grosso modo andrebbe il 29,6% delle preferenze a Bernie Sanders. Poi segue Pete Buttigieg, vera sorpresa di questo voto, questo giovane gay che sarebbe a questo punto il primo tra i moderati. La Repubblica stamattina dice che il 62%, Buttigieg avrebbe superato di un po' Bernie Sanders, anche se le previsioni danno che alla fine sarà il senatore anziano del Vermont a averla spuntarla. Poi interessante che dietro Buttigieg e Bernie Sanders arriva la Warren, quella che è la grande nemica di Wall Street, altra parte della sinistra democratico, col 21% dei voti, e solo al 14% arriva Joe Biden, che un'altra botta così e penso a ritirarsi, scenderà in campo. A questo punto mi sembra evidente Bloomberg, è sindaco di New York, che ha disponibilità enorme, infinita di soldi per la sua campagna elettorale. Allora la De Blasio, i democratici di Iowa, un'app manda in tilt il conteggio, il Corriere, che subito si schiera appunto col giovane gay veterano, anche perché moderato più che gay o veterano. Ora il sindaco Pete, il leader dei moderati per l'appunto, punta e delusa i repubblicani con proposte pragmatiche, vuol dire proposte di destra. Quando dico pragmatiche è sempre di destra, perché chissà perché la sinistra non ha mai proposte pragmatiche, solo quelle che sono privatizzazioni o cose del genere sono pragmatiche, bombardare pragmatico e via dicendo. L'esplosivo gli permette di scalzare l'ex vicepresidente, cioè Biden, che appunto è il commento di tutti i giornali all'unisono, in questo caso danno come il grande sconfitto. 37enne, il più giovane dei candidati, ma dice un cambio generazionale dell'opinione dei votanti, non proprio il commento di Giuseppe Sarcina, perché è vero che nei mesi scorsi il 37enne Buttigieg aveva più volte invitato il 77enne ex vicepresidente Biden a passare la torcia e a lasciare spazio alle nuove leve, ma lunedì 3 febbraio gli elettori democratici hanno premiato anche Sanders, 76 anni, e la Warren, 70 anni. Quindi c'è una cosa che bisogna cercare una politica. Dunque, dice il Corriere, la proposta di Biden si risolve in un richiamo morale, in un appello a salvare l'anima dell'America, come scrive lo storico John McKeon nel suo Soul of America, ma questo non è sufficiente, perché evidentemente la radicalizzazione dello scontro nel Corriere fa giustizia delle posizioni così moderate, quelle che qualcuno da noi direbbe voglia di un paese normale. Stati Uniti d'America, Iowa, dice Valeria Robecco dal giornale, caos alle primarie, lo spoglio va in tilt e Trump sfotte i Dem. Questa è vista dal centrodestra, naturalmente si gongola, il flop è il manuale del conteggio, si torna al manuale, e anche il Sole dice sulle 24 ore meglio la carta. E questo è un commento mai generalizzato da Totorino, che dice meglio i pizzini, fino al Sole 24 ore dice meglio la carta nelle elezioni, perché carta canta mentre l'elettronico volant. Comunque le regole erano cambiate per evitare le contestazioni del 2016, le cose non sono migliorate, quindi allora caos Dem, Trump pensa ai prossimi 4 anni, insomma tutti coloro che tifavano per Joe Biden oggi stanno dicendo che ha già vinto Trump. Sì, considerando anche l'idea di destra e sinistra che è totalmente assente negli Stati Uniti d'America, continuare a fare dei parallelismi con il resto del mondo, anche con l'Italia, è certamente spontaneo, ma a volte quanto mai fuorviante. Da pagina 14 di Repubblica, che come ben sappiamo ha una sinistra governativa ben ferma a dei punti che non sono propriamente vicini a una realtà progressista come la intendiamo noi, riporta in effetti la falsa partenza Dem come denuncia. Le primarie in Iowa sono un disastro, questo è Repubblica, spoglio in ritardo indubbiamente, e Trump gongola. Quindi il contenuto di queste poche righe è: certo, quella sinistra massimalista fa sempre il gioco della destra, come quando sono al governo, e l'affermazione di Trump che va a mettere il dito nella piaga dicendo sono divisivi, non sono certamente una capacità di governativa per andare avanti in maniera continuativa. Al primo appuntamento si inceppa il sistema, i risultati slittano, Sanders vola, Biden molto sotto le attese, già analizzato da Alfredo. Joe Biden il favorito del partito, travolto dal Kiev Gate in cui è stato coinvolto. Pete Buttigieg è l'emergente, il moderato che corre sulle orme di Obama, quindi molto più vicino a Repubblica e molto più vicino anche alla stampa e a tanti quotidiani che analizziamo qui quotidianamente. quotidianamente appese all'Iowa, che pur essendo piccolissimo, pur essendo uno stato non enorme, dà molto l'idea dello specchio per quanto riguarda l'analisi del voto. Siamo sul Manifesto, che ha tutta una visione non certo di continuità con quello che abbiamo visto da Repubblica, anzi dice Sanders in testa, dagli Stati Uniti le primarie Dem, certo caos e farsa, in questo caso Trump si conferma, però quello che andiamo ad analizzare sono il pasticcio democratico e i ritardi inspiegabili nel calcolo dei risultati delle primarie. Il partito dà la colpa all'app, il famoso algoritmo, no, che deve facilitare ma che il più delle volte, anzi sempre, mette in difficoltà. Tutti i candidati dichiarano di essere in testa e alla fine a gongolare il presidente. Il Partito Democratico dell'Iowa ha dichiarato che i risultati del caucus, del caucus sarebbero stati resi noti alle 5 di pomeriggio di ieri. Troppo tardi per noi. A quell'ora tutti i candidati si saranno già trasferiti nel New Hampshire, dove si svolgeranno le primarie tra una settimana, dove si terrà il prossimo dibattito dei democratici. Gli occhi sono già puntati sul prossimo appuntamento, mentre polemiche e incredulità su quanto accaduto in Iowa non accennano a placarsi. Questo è il Manifesto. Passiamo alla Stampa, già in prima pagina con ampio occhiello di approfondimento. Un disastro per i democratici. I democratici degli Stati Uniti d'America aprono le elezioni presidenziali del 2020 con un clamoroso fallimento. I risultati delle primarie nell'Iowa slittano per colpa di una app. Sanders e Buttigieg rivendicano il successo. Confermata la bocciatura a Biden. Pagina 8, pagina 9, lo spazio di Stampa per quanto riguarda i democratici americani. Se la democrazia americana inciampa nel sogno dell'algoritmo, la figuraccia delle primarie smentisce la presunta onnipotenza della tecnologia in politica, ma anche in altri campi. Buttigieg e Sanders cantano vittoria, l'Iowa boccia Biden e Trump esulta. Dopo i primi risultati ufficiali, entrambi i candidati rivendicano il successo e per il presidente si conferma un record di gradimento. La pazza notte dei liberal, abbiamo fatto un disastro, nervosismo, accuse, comitati elettorali in fermento, i risultati restano parziali per 24 ore, si blocca l'applicazione che doveva trasmettere i dati, si contano le schede a mano. Concludiamo con il Resto del Carlino, che chiaramente anche lui esalta questo pasticcio Dem, voto in tilt, partono male le primarie dei Dem in Iowa, a pagina 10 e a pagina 11, dopo l'occhiello che parte in prima pagina dal quotidiano Felsinio, andiamo a vedere come approfondisce, innanzitutto con un identikit, il 78enne del Vermont, stiamo parlando di Bernie Sanders, un socialista alla Casa Bianca, sempre all'interno di un movimento di democratici, e questo dovrebbe essere anche un altro segnale per quanto riguarda il resto del mondo, in particolare ovvio l'Italia, visto che facciamo spesso dei parallelismi. Dopo l'infarto di ottobre è tornato in pista, indipendente di sinistra, appoggiato da Ocasio e Cortez. Poi l'emergente, di cui si è parlato poco, ma che si è ritrovato improvvisamente in una posizione importante, è il candidato più giovane, ha studiato ad Harvard, conosce l'italiano, ma non decolla il rapporto con gli afroamericani. Gay e veterano dell'Afghanistan, Buttigieg, il futuro del partito. 38 anni, ex sindaco di South Bend, l'Indiana, è sposato con l'insegnante Kasten Glisman, se la cava bene, con ben 8 lingue. Questo è il Carlino che, più che il contenuto politico, va ad approfondire il livello accademico del candidato Buttigieg. Pasticciaccio da Minaio, voto in tilt, Biden sconfitto, corso a rischio, e Trump asfalta i rivali e tuona una grande vittoria, con cui concludiamo. Plebiscito in Iowa alle primarie repubblicane, poi la frecciata inevitabile sulla figuraccia dei democratici. Sono incapaci, come pensano di poter governare? Insomma, c'è un fantasma che gira non solo in Europa ma anche tra i democratici americani. Si chiama Bernie Sanders. Behold them seated in their glory, the kings of mine and rail and soil. What have you read in all their story, but how they plunder toil. The fruits of the people's toil are buried in the strong coffers of a few. In voting for their restitution, the people only ask their due. Where's the fire? Robert White, l'Internazionale, ma non si spaventano troppo i moderati democratici o anche repubblicani, se mai dovesse vincere Bernie Sanders l'elezione, Dio non voglia, c'è sempre la soluzione B, quella che ha vissuto Bob Kennedy, perché in America quando un presidente non va c'è appunto la soluzione radicale, il solito killer da un tetto. Comunque passiamo al coronavirus, che naturalmente tiene banco da giorni, tra banco tema ancora per molto tempo, per i suoi tre effetti, quello economico, quello sanitario e quello psicologico di paranoia. Effetto virus sull'auto, soffre anche la moda, sfilate senza i cinesi, questo dice il Sole 24 Ore. Riflessi economici ancora, automotivi in affanno, introduzione nella catena globale della fornitura, anche la Hyundai in Corea del Sud è ferma perché mancano i pezzi di ricambio. E poi le sfilate milanesi, quindi soffre il lusso, si diceva, assenti 1000 buyer di Pechino, a rischio le forniture di Prato. I decessi, poi si fa sul sanitario, salite a 427 Francia, Gran Bretagna e Germania, i cittadini via dalla Cina, anche perché si teme appunto che poi non ci sono più nessuna possibilità di movimento e dicono di rifornimenti alimentari, insomma si teme, e anche di rifornimenti medici, visto la quantità di persone malate, soffre anche la pur nutrita farmacia cinese. Sugli orologi, troppa incertezza sui contagi, la Swatch annulla il Salone di Zurigo. I danni di questa economici, questo coronavirus, li commisureremo nei prossimi mesi. Nel Corriere della Sera parla Cina, la fuga degli stranieri, Parigi e Londra e connazionali tornati in Italia, controlli sui voli dall'estero. E dunque l'imbarazzo di Roma che decide di aspettare, Conte non c'è motivo per ulteriore cautela. La brutta notizia è peggiorano i coniugi, i due turisti cinesi, brutta per loro chiaramente, ma anche perché brutta perché si aggravassero ancora fino alle tremende e drammatiche con più estreme possibilità. Vorrebbe dire che non solo gli ottantenni malati, insomma, avrebbe una maggiore, questo virus avrebbe una maggiore possibilità di espandersi, di colpire drammaticamente. E poi c'è il caso, l'oftalmologo cinese Li Wenliang, Nemo profeta in patria, avrebbe da dire, contagiato il medico che diede l'allarme. Problema tecnico per Alfredo Pasquali, che momentaneamente si assenta, e riprendo io i titoli principali sul coronavirus. Dal Resto del Carlino, scuola psicosa i virus, si aggravano i due turisti, sale l'allerta negli aeroporti italiani. Questo è il titolo del Carlino per quanto riguarda rapporti tra il virus e il resto del mondo. Andiamo a pagina 7 per continuare la nostra lettura del quotidiano Felsinio sull'argomento. E appunto, pena di morte per chi contagia da Pechino, giro di vite voluto dal presidente Xi, punizione severissime anche in caso di notizie false su internet, si arriva fino a 15 anni di carcere, ispezioni negli ospedali, punizioni per chi ha commesso errori, ma anche guerra alle cure della medicina orientale. Questo è il Resto del Carlino, che non dà attenzione a quello che poi succede nel resto del mondo, in particolare in Italia, perché è un'epidemia che purtroppo ha dato adito anche a episodi di razzismo non indifferenti. La Grande Muraglia è il Manifesto, e a proposito di muri, intanto nel silenzio mediatico, ebola e poliomielite fanno poi stragi, non è che c'è solamente questa situazione per quanto riguarda le epidemie, le pandemie nel resto del mondo, come vi ho detto in precedenza, e in Italia, che è fuori dalla lista dei paesi generosi per quanto riguarda l'aiuto e per quanto riguarda l'attenzione a tutto ciò per la realtà del coronavirus. Peggiorano le condizioni dei due turisti ricoverati a Roma, l'emergenza coronavirus resta quelle delle notizie false, ma soprattutto del razzismo. Da pagina 2 e a pagina 4 il dagli all'untore continua, Roma in terapia intensiva, economia a rischio contagio, in Cina è linea dura contro le bufale, l'Italia è fuori dalla lista dei paesi generosi. Secondo il South China Morning Post, un'alta corte avrebbe stabilito fino a 15 anni di reclusione per chi diffonde rumors e la pena di morte per chi diffonde il virus. Intanto, a proposito di quello che leggevo in precedenza dall'occhiello di approfondimento del Manifesto, ebola, poliomielite e tutti i virus che non abbiamo vinto, altro che coronavirus, in questo caso da più tempo e in questo caso con molte più vittime, si diffondono, e sembra che a questo punto ci sia unicamente l'attenzione per quello che è capitato dalla città di Wuhan. Intanto il morbillo, malgrado il vaccino, pensate il morbillo, e nel 2018 ha ucciso nel mondo circa 140.000 persone, e l'HIV, che è stato isolato nell'83, la ricerca non manca, ma la soluzione, pensate, sembra ancora lontana. Si aggravano le condizioni dei due turisti ricoverati allo Spallanzani e a Macao chiudono i punti di incontro e i punti di aggregazione. Il confine più lungo e scambi da 100 miliardi per quanto riguarda l'economia, chiaramente con la Russia. Mosca è preoccupata, il governo russo teme un'infezione di massa, frutta e verdura iniziano a scarseggiare, il rublo cala, l'export rallenta e compaiono i primi casi di infezione. Certamente, essendo un confine così esteso, la possibilità di contagio è più ampia. Il mea culpa di Xi, commessi gravi errori, abbiamo cambiato quotidiano, siamo sulla Stampa di Torino. Pechino afferma Roma esagera per l'Istituto di Sanità, in Italia il peggio è passato, i vicini al rischio zero, questo è da sottolineare secondo me e non è da mettere così in sottotitolo o in carattere assolutamente minore. In Italia il peggio è passato, vicini al rischio zero. Intanto però vediamo l'approfondimento per quanto riguarda l'argomento da pagina 2 a pagina 5 sul quotidiano torinese. In Italia il peggio è passato, anche l'Europa diciamo ha più motivi di tranquillità. Gianni Rezza, il direttore del Dipartimento delle Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, che è arrivato dalla provincia di Hubei, è tornato a casa e i tempi dell'incubazione sono, dice, trascorsi. Questo già è qualcosa da tenere da conto. Infezione respiratoria, per vedere i sintomi e per vedere come si diffonde, ricoverati in rianimazione i due turisti cinesi a Roma. Mamme e prof snobbano i governatori del nord, a scuola i nostri bimbi non corrono rischi. A proposito di muri innalzati, sapete che i governatori leghisti del nord hanno dato l'idea di chiudere completamente le scuole per gli alunni cinesi. La polemica resta di stampo politico, nelle classi elementari e medie si seguono le linee guida del ministro della salute, che diciamo è sicuramente più informato e più vicino a una realtà. Chiudiamo con Repubblica e la fuga dalla Cina, gli italiani per ora no, appello di Londra, Parigi e Berlino, controlli con termoscanner su tutti i voli esteri, dallo Spallanzani si aggravano i due turisti ricoverati. Velocemente per concludere, da pagina 2 a pagina 7 va da sé ampio approfondimento per quanto riguarda Repubblica. Allora, l'Italia per ora esclude nuovi rimpatri, frenata dopo i voli bloccati senza preavviso. Questo si aggravano i due turisti cinesi, viene riportato. Chiudiamo con la scuola. No di Conte ai governatori leghisti, ma si moltiplicano gli isolamenti, fai da te. La polemica sulla quarantena degli studenti. L'effetto virus, tremano turismo, industria del lusso, scende il prezzo della benzina. Insomma, queste sono le analisi più che economiche, ma ovviamente ricordiamo che si sta trattando di esseri umani e di un'epidemia che è esplosa così in maniera incontrollata e si può diffondere, anzi si è diffusa velocemente. Fortunatamente in Italia, visto i tempi di incubazione già definiti, si è vicini al rischio zero, come pare nel resto d'Europa. Il giornale dice: Conte non chiude le scuole, affidiamoci a chi è esperto. Replica di Zaia, che è abbastanza spiazzante, il governatore del Veneto. Sono i genitori a chiederlo, ma dovrebbe essere comunque gli scienziati, a prescindere, i genitori che possono dire, c'è chi dice che non è vero, ma insomma. Però il commento di Gian Michele Sin, sempre dal giornale, che vabbè pompa la paura, il politicamente corretto, la scienza è il politicamente corretto che mette a rischio tutti. Quindi, e allora il Fatto Quotidiano commenta: negri, ebrei, gay, che noia, ora si fa la festa ai cinesi. Questo è un po' il concetto che sotto sotto anche chi dice no, non è vero, ma alla fine questa è la solita morale. Quindi veniamo alle Desire, perché dopo i dazi di Trump, le cimici asiatiche, i cambiamenti climatici, l'incertezza della Brexit, per l'export agroalimentare Emiliano Romagnolo è un nuovo bastone tra le ruote rappresentato dall'emergenza proprio del coronavirus. Col diretti stima che la pelletta possa arrivare a 50 milioni di euro solo nella nostra regione. Intervista Valentina Borghi, presidente del Coldiretti Bologna. Sentiamo le sue parole. Nel 2019 avevamo avuto un record storico per quanto riguarda l'esportazione dei prodotti agroalimentari made in Italy, con un valore stimato di 460 milioni di euro, quindi un più 5% verso la Cina. Questo grazie a tanti elementi, al fatto che comunque i cinesi abbiano cominciato a uscire di casa, a muoversi all'interno del loro stato, a cambiare stili di vita, a consumare cibo fuori. E questo attraverso le proiezioni dati Istat, col diretto che aveva diffuso nei primi mesi del 2020 riguardo appunto il 2019. È chiaro che ora i vincoli ai trasporti stanno riflettendo delle problematiche notevoli anche di incertezza anche sul commercio. Infatti il rischio che stimiamo è di 50 milioni di euro e che rappresenta l'11% del totale nazionale, che è quello appunto che in Emilia Romagna è stato fatto nel 2019. I kiwi e gli agrumi erano già, diciamo così, fra gli accordi internazionali e quindi si sta lavorando su quello. Le frontiere per l'erba medica italiana nel 2018 si sono aperte in Cina e il bando sulle carni suine e italiane era stato rimosso nel 2016. Non c'erano ancora però accordi riguardo alle mele e le pere, perché il negoziato era ancora in atto. Questo lo status all'inizio della crisi. È chiaro che se sommiamo gli ostacoli tecnici assieme a quelli del rischio virus e contaminazione, si ha un quadro piuttosto complicato, e la borsa merci riguardo al cereale tra i più consumati, di cui noi siamo grandissimi produttori, che è la soia, che in Cina viene utilizzato per l'alimentazione degli animali, è uno dei cereali che sta risentendo maggiormente. Sappiamo che viene trattato come borsa all'estero, dove c'è appunto la più grande borsa cerealicola mondiale, e qua si sono visti dei cali per 9 giorni continui. Quindi la situazione a livello globale preoccupa non solo noi, ma anche gli Stati Uniti e il Brasile, proprio perché sono i principali produttori e quindi esportatori verso la Cina. E pensando al futuro, quali sono le principali azioni in programma dell'Unione Europea per cercare di arginare questa crisi? L'Unione Europea sta facendo un'azione, come peraltro sotto gli occhi di tutti, di monitoraggio, di salvaguardia, proprio per trattare il tema della sicurezza da un lato, ma anche della sovranità alimentare dall'altro. Proprio in un momento in cui il cibo è tornato strategico nelle relazioni internazionali, come hanno dimostrato i dati di Trump, ma appunto come sta arrivando anche per la Brexit, come già era successo per l'embargo della Russia, è chiaro che un indotto che sviluppa così tanto sul PIL va tutelato. L'Unione Europea fa la sua parte. È chiaro che l'Italia non perde di vista l'azione che deve fare personalmente, e abbiamo il governatore Bonaccini a capo dell'Unione, appunto, dei governatori, a cercare di tenere alta l'attenzione, perché è inutile, in Emilia Romagna abbiamo 44 per doppio IGP, è la regione al mondo che ne ha di più, quindi è la regione al mondo che ha più da perdere in tutti i tipi di trattati internazionali. Quindi è chiaro che col diretti attraverso la propria azione regionale, non scordiamoci che il nostro presidente regionale Nicola Bertinelli è anche presidente del Parmigiano Reggiano, uno dei prodotti più colpiti, sta appunto monitorando non solo in Italia attraverso il ministro sia della salute, sia dell'ambiente, sia dell'agricoltura, ma anche a livello europeo, perché lì si giocano le partite, ma noi dobbiamo far sentire la nostra voce, perché gli interessi in ballo maggiormente, ovviamente con valore economico, sono proprio i nostri. Quindi non dobbiamo uscire danneggiati, ma soprattutto non possiamo nemmeno pretendere che gli altri facciano il nostro lavoro, perché chi ha più da perdere siamo noi. Quali sono, secondo Coldiretti, quali saranno gli esiti futuri in un futuro immediato e anche a lungo termine? Ci vorrebbe la sera di cristallo per saperlo. È chiaro che la nostra politica con cui si sta andando avanti è una politica di tutela, è una politica che ha portato pochi mesi fa a portare a 1.100.000 le firme della richiesta di etichettatura obbligatoria. Io credo che la chiarezza, la trasparenza e il Made in Italy possano comunque aiutare a seguire una trasformazione che sarà epocale, perché il cambiamento climatico è un dato, i dazi e il protezionismo interno è un altro dato. Il fatto che l'Italia, a prescindere dalla tematica e dall'ondata e dall'atteggiamento europeo della Green Deal, è un dato di fatto che l'Italia è la più virtuosa, quella che ha meno emissioni, 50% in meno rispetto a tutti gli altri paesi, e che l'Emilia Romagna, grazie appunto al governatore Bonaccini e all'attività di Coldiretti, è una regione estremamente avanti dal punto di vista delle emissioni, della tutela. Quindi noi dalla parte nostra la vediamo in maniera molto chiara: questa è una strada che non ha un ritorno, perché è in atto un vero e proprio cambiamento che è epocale. Quindi io credo che sarà in trasformazione day by day, perché fino a un anno fa della cimice asiatica si parlava poco. Un inverno particolarmente caldo ha fatto sì che la cimice asiatica sia diventato un problema endemico fortissimo, di cui siamo andati a parlare anche a Verona la settimana scorsa. Quindi stare allerta, pensare che il cambiamento climatico giorno per giorno ci metterà di fronte a nuove sfide, non saranno sfide temporali e momentanee, ma saranno sfide sempre di più importanti, impegnative, e che soprattutto saranno lì per misurare la capacità delle istituzioni, dell'agricoltura, delle associazioni di non disintermediare e di fare una attività di lobby importante in Europa come in Italia. Quindi non è una questione di vedere a breve o a lungo termine, ma è una questione di essere sul pezzo, come si suol dire, per lavorare giorno per giorno e non perdere neanche un respiro di questo cambiamento, perché ogni volta, ogni momento c'è sul piatto qualcosa di così importante che non può poi essere perduto per strada, e quindi la lotta è centimetro per centimetro. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. E veniamo all'estero ancora. La cattiva notizia in Libia, anche se non ci sorprende, e lo racconta il Sole 24 Ore: Libia, violazione quotidiana dell'embargo delle armi. Quello che è la buona notizia doveva attaccarsi l'ottimismo della volontà più disperata. Secondo l'ONU ci sarebbe un accordo per convertire la tregua in un cessate il fuoco duraturo. Questo è Sole 24 Ore. Invece si diceva occhio per occhio il mondo diventa cieco. È la storia raccontata da Stefano Montefiore del Corriere dalla Francia. Insulta l'Islam sotto scorta, una liceale divide la Francia. E lei dice: non mi pento le parole che ha detto, questa youtuber. Dunque, sabato 19 gennaio, Mila posta uno dei suoi video su Instagram. Sogna di farla cantante e pubblica spesso le sue canzoni online. L'account è il simbolo dell'arcobaleno della comunità LGBT e capita che la ragazza evochi la propria omosessualità. Quel pomeriggio un ragazzo scrive un commento sul video e cerchi di agganciarla. Ray resta educata, ma respinse l'avance. E a quel punto partono gli insulti omofobi. I ragazzi e i suoi amici islamici la chiamano sporca lesbica, francese di merda, ed è solo l'inizio. Lei perde la calma, non risponde alle offese personali e non rivolge frasi razziste a nessuno, ma posta un altro video nel quale si dice di testare tutte le religioni. In particolare parla del Corano come una religione dell'odio e aggiunge: la vostra religione è di merda, il vostro Dio gli mette un dito nell'occhio. Grazie, arrivederci. Di qui appunto le accuse e contraccuse. Dite voi con chi schierarvi. Allora, completiamo le notizie dall'estero. Si parla di epidemie, ma anche di altri disastri che sembrano passati in secondo piano. In questo caso è l'ambiente e quello poi che ne consegue, con un aumento. Eccolo qua, ma mi ha fatto da stacchetto musicale. Le cavallette invadono il Corno d'Africa. Sciami di locuste nel deserto danneggiano le coltivazioni di Kenya e Somalia. La FAO a rischio il cibo per 20 milioni di persone. 200 miliardi di esemplari di locuste partite dallo Yemen e arrivate nel Corno d'Africa. Sono 150 i chilometri che lo sciame di cavallette può percorrere al giorno. Qui le vediamo veramente in maniera inquietante alla presa di attacchi alle piante. I rulli di tamburi, battiti di mani sono fra i metodi che gli agricoltori usano per sbarazzarsi di questi pericolosi insetti. Questa è la situazione nel Corno d'Africa. Andiamo più a nord. Sarraj e Haftar, intesa a Ginevra, sia al cessate fuoco permanente. Accordo fra gli emissari dei due leader libici, l'inviato all'ONU, le distanze sono ridotte. Qui soldati e miliziani fedeli al governo di al-Sarraj combattono alla periferia di Tripoli contro gli uomini del generale Haftar, qui ritratti in fotografia dalla stampa. Concludo con Malta, scandalosa Malta, cambio quotidiano e vado sul Manifesto. Il nuovo premier è partito malissimo, nel segno della continuità con Muscat, l'intervista a Matthew Caruana Galizia, figlio della giornalista uccisa nell'ottobre 2017, che appunto critica, c'è una paralisi, la gente non ha idea di chi votare, proprio per questo abbiamo bisogno di cambiare la classe politica, siamo messi come l'Italia durante Tangentopoli. Beh, siamo un bel metro di paragone. Sono passati 7 anni di governo Muscat, qual è l'eredità che lascia Malta al suo partito? Risposta: non riesco a trovare altra eredità che non sia negativa. La gravità dei crimini commessi del suo governo eclissa tutto il resto. Ha trasformato il partito laburista in un'organizzazione e quest'ultima ha usato il partito come veicolo per impossessarsi del governo. Questa è la situazione appunto per quanto riguarda la vicina Malta, che tra l'altro è anche punto di scambio per la situazione migrante, e a maggior ragione l'attenzione focalizzata dal Manifesto a pagina 11 è quanto mai giustificata. Queste le notizie per concludere la parte degli esteri. Allora, parla di migranti, il giornale ha lo scoop. Ecco tutte le carte per arrestare Salvini, il piano dei giudici, perché i giudici non fanno più processi, fanno piani, secondo il giornale. Sequestrò i migranti e il tribunale protegge Conte. Il 007 sulla Grigoretti, migranti pericolosi. E questo sarebbe il motivo per cui che viene fuori adesso, no? Che c'erano i tedeschi, ci avevano avvertito sulla nave Gregoretti, ci sono 3 sospetti terroristi. Beh, si poteva lavorare sui 3 sospetti terroristi invece di bloccare tutti nel mucchio. Comunque, i giudici vogliono Salvini in galera per Operams, fu un sequestro, non un atto politico. Sappiamo che ha difeso Salvini, che ha difeso i nostri confini, è bello che l'ha difesa della Marina Militare Italiana. Questo è il capolavoro di questa affermazione. Comunque, sui migranti, vado al cultura spettacolo di Bologna, al Corriere, le rivoluzionarie donne di Ulisse, perché si parla di accoglienza. Il martedì al 11 la Feltrinelli, la scrittrice bolognese Oliva, presenta il suo nuovo romanzo L'Odissea, edito da Solverino. Perché parliamo di L'Odissea? Perché parliamo di Ulisse. Era un migrante naufrago e Nausicaa l'accoglie, un bel messaggio oggi. Questo è quanto. E allora Lucio Dalla ci racconta che non solo c'è il migrante Ulisse, ma c'erano anche i suoi marinai che erano, avevano meno mito di Ulisse, ma stessa sorte. Capitano, le tue colpe pago anch'io coi giorni miei, mentre il mio più gran peccato fa sorridere gli dèi. E se muori è un re che muore, la tua casa avrà un erede. Quando io non torno a casa, entran dentro fame e sete. E del mare si parla anche quando si parla quindi delle sardine, ovviamente. E noi allora andiamo al Corriere della Sera, che torna su questo fenomeno che ha riempito le colonne della stampa durante le elezioni Milano-Romagnole, non solo. Il titolo è: con Monica Guerzoni le sardine ripartono divise e danno le pagelle ai candidati. Per divise si intende Stefano Gongo, che sappiamo che da Roma ha preso le distanze. Sono manovrati in piazza, andrà meno gente, dice lui, che si è fatto il suo Facebook di sardine personale, si sogna un suo partito. Comunque, sono divise le sardine, sembra di no a leggere l'articolo poi del Corriere, perché dice: ora che la scissione può dirsi fallita. Quindi perché dice Sartori: il mare di tutti. Allora le sardine ripartono, no a De Luca in campagna, sì a Gianni, Dem bocciati, da Lotti a Franceschini. Questo sono il Corriere della Sera. Ma il governo naturalmente in questo momento è alle prese con i nodi che dividono 5 Stelle, PD e Italia Viva. E naturalmente il corno del problema che si avanza adesso è la prescrizione, lo sfogo del Premier: basta col muro contro muro. Conte avverti Italia e Valori, 5 Stelle e PD. La Lega presenta un piano antiriforma simile a quello di Forza Italia. La manovra tattica è chiara per far sì che Italia Viva converga con Forza Italia, quindi che è vicino alla Lega. Annibali, avvocato diputata, dice: votare con gli azzurri, parla di Italia Viva. Italia Viva contro questa legge, il ministro la fece con altri, ceda lui. Non ci spiega la signora perché al tempo Renzi era favorevole alla cancellazione della prescrizione. Lo spiega la cattiveria del Fatto Quotidiano. In un video del 2015 Renzi attaccava la prescrizione, all'epoca babbe e mamma non erano neanche indagati. Forse questa è una spiegazione maliziosa. Ma il Fatto Quotidiano, che è tutto per cancellare la prescrizione, sì che simpliciter, senza nessun contrappeso: la prescrizione uccide un altro processo all'Ilva. Da Taranto, ambiente svenduto bis, ieri dichiarati prescritti Giacometti, l'ex commissario Bondi, l'ex direttore di Gelsaieria, è già il secondo caso, presto ne seguiranno degli altri. E sempre insistendo su questo tenore di ragionamento, con Antonio Massari, dagli stupri alle stragi, così l'impunità nega la giustizia, tempo scaduti, familiari di Viareggi, genitori di Martina, reati gravissimi che non sono mai stati riusciti ad arrivare a sentenza. Mentre Conte vuole una soluzione che non sconfessi Bonafede, sembra che più che altro sia un problema a questo punto di bandiera degli uni e degli altri, di Renzi da una parte, di Crimi dall'altra, perché per aumentare i loro vantaggi di visibilità e quindi poi di elettorali. L'incubo prescrizione, la maggioranza lavora per non cadere al Senato, perché è lì dove il piatto piange nei numeri, ed è il Laura Cesaretti dal Giornale. Il premier temporeggia, ma è stretto tra i 5 Stelle e l'IRA PD anche contro Italia Viva. Appello al dialogo su l'IRA PD, questa mattina le registriamo la prescrizione. Orlando dice Renzi non rimette in gioco Salvini. Riprendo dalla pagina Economia e Lavoro, una notizia che riguarda poi tutto il mondo, è una notizia che vede la morte di 5 operai che risale al 5-6 dicembre del 2007. La Thyssen, a proposito di acciaierie, no all'ultimo ricorso, ora i manager vanno in carcere. Lo ha stabilito il Tribunale regionale di Hamm in Germania, siamo a pagina 8 dal Manifesto. Harald Eppchen, Gerald Prinz, manager della multinazionale tedesca e dell'acciaio ThyssenKrupp, sono stati riconosciuti responsabili in via definitiva per il rogo del 2007 che a Torino ha ucciso 7 operai. Dovranno scontare 5 anni di reclusione. Questo arriva dal Manifesto a pagina 8, presentato in CGIL a Roma il 17° rapporto diritti globali. Il capitalismo non funziona, è ora di cambiarlo in fretta. Lo riporta il Manifesto, che dà attenzione alla situazione grave sulle morti sul lavoro, a pagina 8. Ma abbiamo parlato anche di realtà politiche italiane, ultimatum prescrizione, siamo su Repubblica, l'intervista a Matteo Renzi che sfiducia Bonafede, molleranno prima perché non hanno la maggioranza, combatto il giustizialismo, spero che il PD non sia succube dei 5 Stelle, inaccettabile la mediazione di Conte. Da pagina 8-9 di Repubblica anche l'Open Arms, l'accusa dei PM, Salvini decise da solo e addirittura contro il governo. Andiamo a vedere questi insieme di approfondimenti che troviamo sul quotidiano La Repubblica. Partiamo dalla prescrizione, Bonafede sotto assedio, si tratta su modifica o rinvio, due le ipotesi in campo, il blocco dell'istituto dopo la sentenza d'appello oppure lo slittamento dei 6 mesi degli effetti della legge per lavorare sull'accorciamento dei tempi del processo, giornata di trattative ma il ministro nega il passo indietro. La divisione del retroscena, i 5 Stelle divisi sulla mediazione, il premier al PD che pressa, non sono io che rallento, certo che i ministri pentastellati premono per una mediazione mentre i Di Maiani sono per tenere il punto. Zingaretti afferma basta con questo immobilismo. Ritorna Renzi che in questo caso urla e dice da protagonista li fermeremo in un modo o nell'altro anche senza sfiducia e Conte cambi passo. Difendo lo Stato di diritto, non voglio cambiare schieramento, è il PD che ha cambiato idea sulla legge del suo vice segretario Orlando. Così insomma allo stesso modo Renzi fa presente nella situazione prescrizione. Vediamo la stampa di Torino per quanto riguarda la politica interna e la prescrizione stessa, alla quale appunto diamo continuità con le notizie dal quotidiano torinese, e scontro sul rinvio, prime critiche nel Movimento 5 Stelle a Bonafede, l'ala dei grillini filo PD no alle impuntature e spunta anche l'ipotesi di un decreto lampo. Renzi, ripreso in un occhiello di approfondimento invece qui sulla stampa, minaccia il voto contro la riforma, Conte chiede a tutti il famoso che abbiamo citato in precedenza pragmatismo. E chiudo con l'Open Arms, Salvini nei guai per le mail, scambiate con Conte, a Ferragosto 2019 col governo ormai in bilico, il premier chiedeva di far sbarcare la nave, il primo ministro chiedeva almeno assistenza e tutela ai minori presenti, quindi addirittura questa situazione di incontro e scontro viene evidenziata e certamente non a livello amichevole, anzi tutt'altro, ma con un'attenzione che Conte ha dato per i soggetti più deboli e con lo stesso Salvini che invece si metteva contro al governo stesso, qui evidenziato non dal Manifesto in questo caso ma dalla stampa stessa. Chi è contro assolutamente la riforma Bonafede sulla prescrizione è Valerio Guizzardi dell'associazione Papillon Ribibbia Onlus, che abbiamo ascoltato, sentiamo le sue parole. La riforma è una regressione giuridica e anche umana da un certo punto di vista che i 5 Stelle, giustizialisti, manettari da sempre, più altre forze politiche che evidentemente li seguono, hanno tentato di riformare. In realtà pare sia già passata per legge, adesso comunque c'è discussione. Hanno pensato di praticamente abolire la prescrizione, si blocca dopo il primo grado, dicono loro, per impedire ai colletti bianchi, alla corruzione. Infatti si chiama decreto spazza corrotti, quello che fecero tempo fa e che ha dato luogo ad alcune misure. Quindi loro pretenderebbero, per l'ossessione che loro hanno sulla corruzione pubblica, che anche per noi ovviamente è un problema, ma non un'ossessione come per loro, per punire loro modificano le leggi che poi interessano tutti. C'è questo senso dell'ossessione, della punizione, che a nostro avviso dovrebbe scomparire per lasciare luogo ad altre cose. Quindi viene abolita comunque un istituto giuridico introdotto dal Costituente, nello scrivere della Costituzione, che dovrebbe garantire il cittadino, quindi una misura garantista nei confronti del cittadino, dalla una sproporzionata lunghezza dei processi, e quindi riportare con la prescrizione la durata dei processi a una durata ragionevole, si dice così. Cosa succede se questa riforma va avanti e diventa definitiva? Si blocca la prescrizione e ci sarà il processo infinito. Va da sé, lo capisce anche un bambino, se tu blocchi la prescrizione, cosa che comunque da un punto di vista costituzionale non potrebbe, non dovrebbe essere fatto, ma non allo stesso tempo, anzi prima, non riformi l'intero codice penale e di procedura penale, tu avrai un processo infinito. Il risultato è che sia il presunto colpevole, quindi l'indagato, che rimarrà per praticamente tutta la vita, almeno 10-15 anni almeno, con un carico pendente, e voi capite cosa significa avere un carico pendente, soprattutto per un giovane: problemi di lavoro, non puoi partecipare a concorsi pubblici e tante cose di questo tipo, fino ad arrivare alle volte anche alla patente, insomma. E la vittima, che non avrà mai giustizia, perché non saprà mai qual è il colpevole, quindi il processo infinito. Questo è un'aberrazione umana e giuridica che si assume chi appunto porta avanti questa vicenda. E poi naturalmente c'è un dibattito pubblico che a me pare surreale, no? Perché da una parte ci sono i ricchi e i potenti, tipo Berlusconi e chi li rappresenta, tipo Renzi, eccetera eccetera, che fanno i garantisti e dicono no, la prescrizione è appunto una cosa utile perché la lunghezza dei processi, eccetera eccetera. Loro in realtà usano la prescrizione come l'uso che ne descrive Da Vigo, no? Nostro acerrimo nemico, diciamo così, per allungare i processi e arrivare a prescrizione, perché loro ci stanno sempre dentro. Non si può dire la stessa cosa per gli altri, per cui io sono indagato per un tale reato, rimango con un carico pendente per 10, 15, 20 anni, è una cosa assurda, no? Per poi arrivare eventualmente, dopo i tre gradi di giudizio, con un verdetto di colpevolezza, dopo 20 anni magari io ho fatto una stupidaggine da giovane, mettiamo a 20 anni, arrivo a 40, che dopo quella stupidaggine mi sono comportato da bravo e integerrimo cittadino, ho trovato un lavoro, ho una famiglia, ho dei figli, eccetera eccetera, e improvvisamente dopo 20 anni alle 5 della mattina ti bussano alla porta i carabinieri e ti portano in galera, perché quel carico pendente si è trasformato in una condanna al carcere, e quindi non c'è più l'attualità del reato, quindi la punizione sempre tra virgolette non ha senso, e questa, a mio modo di vedere, si chiama barbarie giuridica e umana, che in questo Stato appunto vige praticamente da sempre. Abbiamo tutte le probabilità con questa legge di sprofondare nel baratro, già prima non avessimo problemi. Voi come associazioni, come pensate che possa essere sviluppato, diciamo, un sistema giudiziario appunto che possa essere più equo e possa effettivamente risolvere questi problemi? Noi, ribadisco, noi siamo per l'abolizione totale del carcere e del sistema punitivo, c'è altro a cui pensare da questo punto di vista. Il problema, per quanto riguarda la prescrizione, dicono loro, intanto che blocchiamo la prescrizione, riformiamo e faremo un'altra iniziativa, un'altra legge per velocizzare il processo. Dicono una sciocchezza, e lo sanno di dirla la sciocchezza, perché se tu vuoi velocizzare il processo devi avere un altro codice penale che non corrisponde a questo. Ad esempio, tutta una serie di reati, e sono tantissimi, sono centinaia di reati che da penali penali potrebbero diventare illeciti amministrativi. Ecco, già in questo caso non c'è più la carcerazione e quindi tu vai a sbloccare tutta una serie, sono migliaia di processi, depenalizzazione di tutta una serie di reati, no? Nel penale, quindi porti la soglia molto più al ribasso, questi processi potrebbero venire risolti con l'attenuità del fatto e tante altre formule giuridiche che escluderebbero questo processo. Tu devi riformare completamente, ma rivoltarlo come un calzino, l'intero codice penale e anche il codice di procedura penale. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Oh, apriamo il Corriere di Bologna perché per chiudere la pagina politica nel dopo elezioni di Milano Romagnola c'è imbarazzo nella Lega per la fuga della Borgonzoni, che dopo aver detto Emilia e Romagna adesso rimane al Senato, dimostrazione di quanto gliene fregava andare a governare la nostra regione. Imbarazzi, tensioni nel carroccio per la prossima rinuncia di Lucia Borgonzoni allo scranno in regione, quindi bocche cucite, ci dice il Corriere di Bologna. L'opposizione di centrodestra si avvia 5 anni senza una leadership unica, nessuna le carte per rivendicare quel ruolo dal posto della senatrice leghista. Sempre a Bologna, ma direi tutto il nord-est italiano, ieri il tempo ha segnalato fortissime raffiche di vento con tanti interventi che di giri del fuoco, dice il Corriere, sempre Corriere di Bologna, alberi pericolanti, rami spezzati, tegole violate in strada, volate in strada e tetti pericolanti. Sono stati 30 gli interventi di giri del fuoco per i danni creati dalle forti raffiche di vento che hanno sferzato fin da ieri mattina Bologna e provincia. Mentre vado al parlavo del lavoro, vediamo, si parlava di Salvini, blocchi stradali, multe da 4.000 euro a chi sciopera, questo è uno sciopera per il diritto al lavoro e viene licenziato e si becca una multa di 4.000 euro, quindi bastona canche a fuga, questa è la logica del più forte. Avere scioperato per chiedere migliori condizioni di lavoro, leggo dal Fatto Quotidiano, è costato caro a 20 magazzinieri extracomunitari di Tortona nell'Alessandrino, sono stati prima licenziati e poi hanno beccato le multe al decreto di sicurezza di Matteo Salvini, ognuno di loro rischia di dover pagare fino a 4.000 euro perché durante la manifestazione avevano bloccato la strada. La stretta voluta dalla Lega viene approvata a fine 2018 dal governo Conte 1 e per la nulla modificata dal Conte 2, quindi la prima cosa da fare è appunto togliere queste leggi vessatrici dei diritti dei lavoratori, e vessatrici dire poco. Storia tutta legata al malcostume che diventa tragedia, suicida per un parcheggio dopo la gogna social, la storia drammatica di un vigile, questa è l'Italia dei giusti, quelli che si scatenano contro i cattivi, leggiamo. Aveva sbagliato, uno sbaglio antipatico, difficile da perdonare, aveva chiesto scusa, aveva preteso di pagarne le conseguenze. Intanto però il tribunale dei social, che è un tribunale a gogna con tutti i crismi, aveva già emesso la sua sentenza per un povero vigile urbano di 43 anni che aveva sempre fatto il suo dovere. Ieri mattina nel cortile del suo palazzo, a palazzo sull'Oglio, con la pistola all'ordinanza, il vigile Gianmarco Lorito si è tolto la vita eseguendo la condanna a morte dei leoni da tastiera. Ma immagino che questi non turberanno i loro sogni e cercheranno la prossima vittima da spolpare. E infine vado nel paniere dell'Istat, secondo il Corriere è una svolta green verde perché arriva il monopattino, le novità del paniere che fotografa le abitudini di spesa italiani, il sushi consegnato a casa, l'estetista per uomo e le auto elettriche. Bene, a pagina 5 invece qualcosa di più importante dal manifesto, caso Regeni, il nostro ambasciatore non collabora, ascoltati in commissione parlamentare d'inchiesta i genitori di Giulio, che dichiarano zone grigie sia dal governo egiziano che da parte italiana. Sicuramente l'avvocato Ballerini prosegue, l'Italia dovrebbe inserire l'Egitto nella lista dei paesi non sicuri, 3-4 persone ogni giorno fanno la fine di Giulio, un regime paranoico senza rispetto per i diritti umani. Andiamo a vedere poi allora gli affari, elicotteri e navi militari, gli invisibili tra Roma e il Cairo, indiscrezione su nuovi contratti di vendita, Fincantiere e Leonardo dichiarano no comment, che già è una risposta pur essendo una non risposta. Nel 2018 boom dell'export, 89 milioni di euro, nel 2019 2019 armi leggeri da 1,5 milioni, interessato anche Alfano a quanto pare all'interno del governo durante la situazione Regeni. Eppure il governo, tra cui 5 Stelle fanno parte, avrebbero dato l'autorizzazione della vendita di 2 navi militari Fincantieri dalla compagnia della difesa egiziana. Il reportage, che è quello Egypt Defense Review, il sito di monitoraggio degli affari militari intessuti dal regime del Cairo, l'accordo, scrive, riguarderebbe il trasferimento della Spartaco e dello Emilio Bianchi F-399 alla marina egiziana. Quindi vediamo come in questa tragica e cruenta spy story gli affari siano ben presenti. Questo è dal manifesto. I regeni spiati in Italia, così dichiara la famiglia. L'ambasciatore al Cairo pensa solo agli affari e troppe ambiguità nella politica. Questo lo riporta invece la Repubblica. Nel caso del vigile urbano suicida se ne occupa la Stampa, allo stesso modo come ha già citato Alfredo, per cui vediamo dal Resto del Carlino il titolo principale per concludere le notizie con la cronaca. Anziani, malati, famiglie lasciate sole, l'inchiesta, 2,5 milioni di infermi, 31 miliardi l'anno per accudirli, solo il 3% è assistito dallo Stato. Anziani malati, lo Stato non c'è, spese e assistenza scaricate sui figli, poi il caso particolare di situazioni veramente gravi, 2,5 milioni di infermi, costo per 31,4 miliardi, metà a carico delle famiglie, denuncia, le strutture sono insufficienti. Concludiamo con il maltempo che ieri si è fatto vivo con forti raffiche di vento, così andiamo a completare anche l'osservazione per quanto riguarda la nostra città e la provincia. Forti raffiche di vento, alberi caduti e decine di interventi non solo nella città di Bologna ma anche in provincia. Qui viene citato Gaggio Montano. E questo è tutto, noi ci salutiamo, arrivederci domani sempre a stessa ora con la rassegna stampa. Ciao a tutti.